Il frenetico bisogno di infilarmi in situazioni complicate, delicate. Il nefasto struggimento in cui affonda le radici una canzone d'amore. Smisurato desiderio di lasciarmi ammalettare e poi fuggire, tradire. La scoperta che lo zucchero in fondo era solamente sale. Tornare, ciao, come ti chiami? È uno stato incompatibile con quello dell'amore. Parere personale, è la fedeltà e la scienza che purtroppo non riesce a progredire. Ci potrei provare. Con il tempo ho sviluppato la mia indole gentile ed ospitale, speciale. Il mio letto è sempre aperto a nuove forme di comunicazione da sperimentare. Partirò domani.